Benvenuti a tutte e tutti, siete sintonizzati sulle 87.9, le frequenze della vostra radio preferita, Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda oggi lunedì, sono le 14, un programma speciale. Abbiamo ripescato, rispolverato dagli archivi di questa radio un programma di qualche tempo fa, Stona Favole, il titolo è sì, avete capito bene, parliamo di favole, raccontiamo favole nei prossimi 40 minuti, poco più o poco meno, raccontiamo delle favole, anzi verranno lette delle favole da attori e attrici. Per voi più piccoli e più piccole ascoltatori e ascoltatrici di questa radio che in questi giorni non potete uscire, ma che per un po' di tempo, per qualche manciata di minuti, potete cavalcare l'onda rossa della fantasia. Buon ascolto a tutti e tutte.